Pronto? Ci senti? Ciao. Ciao. Ciao, innanzitutto benvenuta e niente, ti abbiamo inserita in questa serata in cui stiamo, come ti spiegavo precedentemente, parlando di strategie e resistenze delle donne e delle femministe contro il patriarcato e contro la violenza maschile. In Messico, insomma, si stanno muovendo molte cose, come anche in America Latina. C'è un congresso, un convegno, insomma, che si sta svolgendo proprio in questi giorni, un convegno femminista lì in Chiapas, e noi ti abbiamo chiamata per farci raccontare un po', insomma, sappiamo che tu l'hai seguito, farci raccontare un po' come è nato e di che cosa si è parlato in questo congresso, come sta andando, quante donne ci sono, forse troppe domande tutte insieme. Va bene, allora innanzitutto un saluto a tutte le compagne in ascolto, grazie mille, mi fa molto piacere poter condividere con voi qualcosa di queste intense giornate. E sì, io vi chiamo da San Cristóbal de las Casas, Chiapas, e in questi giorni si sono date moltissimi eventi e attività relazionati a questi temi in vista della giornata di domani, della grande manifestazione che percorreranno tutto il paese e anche e non solo in Messico. E questo congresso è qualcosa di importante di nuovo qua in Chiapas, perché l'hanno chiamato primo congresso femminista del Chiapas, perché effettivamente è la prima volta che si dà un'articolazione di diverse organizzazioni, tanto locali, nazionali e anche straniere, che da anni lottano per riconoscimento delle donne, contro la violenza maschile, contro il patriarcato. Più o meno alla giornata di ieri avevano partecipato circa 200 donne, oggi si chiudeva il ciclo, diciamo, di tavole rotonde e di seminari, e appunto hanno partecipato donne e anche uomini, ma soprattutto donne facenti parte movimenti femministi, tanto ciapanechi quanto messicani e di altri paesi. E appunto è stata un'opportunità importante di unire le diverse anime del movimento, di aprirsi, di questionarsi e di ricoordinarsi in nuove forme e articolazioni. È stato uno sforzo di organizzazione notevole, con pochissime risorse e appunto all'insegna dell'inclusione. Hanno partecipato tanto le femministe storiche del movimento ciapaneco, che sono state quelle che l'hanno coordinato, quanto movimenti più giovani. Ora vi posso dire alcuni dei temi che sono stati trattati. Sì. Per esempio, hanno iniziato il primo giorno con una prospettiva storica del movimento femminista, soprattutto incentrato sull'ottica del sud-est messicano, quindi soprattutto locale, per poi andare a parlare in generale del movimento femminista messicano e latinoamericano. E poi già durante la prima giornata ci sono state alcune tavole rotonde sui nuovi femminismi, quindi femminismi giovani, si è parlato di bambini, si è parlato di donne in prigione. Durante la seconda giornata sono stati toccati più temi riguardanti l'ambiente, la madre terra, il territorio e l'accademia, quindi tutto ciò che riguarda studi di genere, studi e ricerche femministe. E una giornata molto interessante è stata quella di ieri, quando hanno partecipato compagni e compagne del movimento Sì, stiamo perdendo. Pronto? Sottolineato l'importanza di decolonizzare il femminismo e integrare al movimento appunto altre anime, come il movimento transgender, transessuale, travesti e il femminismo nero e afro, e hanno ribadito come il genere, la classe e l'etnia sono entità interconnesse, ed è importantissimo ricordare l'intersezionalità delle oppressioni. Quindi in questo senso si è voluto avere appunto una prospettiva molto ampia e molto inclusiva. Poi ovviamente si è parlato di femminismo. perché qua in Chiapas ovviamente un tema molto di ampie vedute, molto largo. Si è parlato anche di giornalismo femminista, quindi insomma è stato un programma, tuttora è in corso in realtà, il congresso termina oggi, vi dicevo, è stato abbastanza intenso e ricco di contenuti. Ma sono uscite delle date, degli appuntamenti da questo congresso? Domani sarete in piazza? Sì, domani saremo in piazza in questa manifestazione, questo corteo che prenderà tutte le vie della, cioè un lungo corteo che attraverserà la città di San Cristobal, e sicuramente è stata un'occasione perché varie organizzazioni e vari movimenti insomma si articolassero per poi potersi rincontrare in futuro, però diciamo che la data principale su cui ci focalizzate è la data di domani. Ho capito. Senti, invece leggo sul sito del convegno, vabbè, si è parlato anche della casa della salute delle donne, e che uno dei problemi più grandi che si denunciava è l'impossibilità di abortire, quindi la forzatura di dover andare da persone ovviamente non specializzate, e si denunciava all'interno del sito tutta una serie di donne, sono tantissime, che sono morte di parto forzato perché non assistite durante l'aborto e di aborto stesso, quindi non so, immagino che si sia parlato molto anche di questo. Sì, si è parlato molto ed erano presenti delle compagne che hanno distribuito del materiale molto interessante al riguardo, proprio sul cuidado, scusate, parlo un po' itagnol, sulle attenzioni durante e post aborto. Sì, diciamo che la situazione qua è veramente critica. In Messico l'unico posto dove si può abortire legalmente è Città del Messico. Nel resto del paese ci sono delle strutture, allora non, diciamo c'è una situazione intermedia un po' surreale, per cui ci sono queste strutture che sono delle specie di consultori dove ti possono aiutare in questo senso, la maggior parte dei quali può distribuire la pillola abortiva. Il problema è che non c'è un'attenzione, un accompagnamento durante il processo stesso, quindi ci sono tantissimi casi di complicazioni, ma anche complicazioni magari molto cioè di per sé non emergenziali, che però diventano emergenza quando la donna viene lasciata da sola a casa sua senza un accompagnamento e senza che le venga spiegato bene come funziona il processo. Quindi sì, la lotta per la legalizzazione dell'aborto in tutto il resto del paese è lunga e insomma è un tema ancora molto molto caldo. Ma in che modo si organizzano le donne per far fronte a questa situazione? Ci sono organizzazioni più o meno grandi e collettivi che cercano di offrire un aiuto al riguardo, un appoggio degli spazi che sono dei consultori non convenzionali di salute autonoma, per esempio, che offrono appunto un'attenzione e un accompagnamento alle donne, però comunque è molto difficile perché si rischia poi sempre di cioè è comunque una cosa illegale, quindi sono pratiche che vengono fortemente ostacolate esatto, dalle istituzioni. No, ho capito. E non so se ci puoi aggiungere qualcos'altro, una cosa in particolare che ti ha colpito di questi giorni, una riflessione. Beh, sì, diciamo che in generale questo congresso si inserisce in una situazione molto molto delicata e molto preoccupante del Messico, ma in particolare del Chiapas, perché qualche giorno fa, a metà novembre, scusate, è stata dichiarata l'allerta di genere. Più o meno dall'inizio del 2013 oggi sono stati riportati 700 casi di femminicidi solo in Chiapas, e quindi è stata fatta questa campagna per cercare di riconoscere dalle istituzioni, quindi con tutte le le limitanti del caso, l'allerta di genere. Allerta di genere che significa ammettere che c'è una situazione di violenza diffusa, preoccupante e che non quasi incontrollabile. Quindi esiste questa agenzia che si chiama Sistema Nazionale per Prevenire, Sradicare e Sanzionare la Violenza contro le Donne, che ha dichiarato l'allerta di genere. Purtroppo poi questa allerta di genere quasi mai si traduce in pratiche vere e proprie che vadano davvero a sradicare questa situazione di violenza diffusa. Anzi, addirittura è stata riconosciuta solo in 7 su 122 municipi del Chiapas, quindi sono poi cose che lasciano molto a riflettere. Quindi quello che è stato, ovviamente l'allerta in sé dichiarata dall'istituzione è stata criticata, limitata, discriminatoria, incompleta, non va assolutamente a affrontare la questione nei suoi aspetti strutturali, però ha comunque fatto sì che ci fosse un minimo di dibattito sui temi. Durante il congresso si è ripetuto più e più volte di come l'organizzazione, l'auto-organizzazione deve venire dal basso, dai movimenti e nelle pratiche. Quindi, per quanto ovviamente un congresso si limiti sempre poi a delle grandi chiacchiere un po' anche se vogliamo autoreferenziali, si è ripetuto più e più volte come bisogna incominciare o ricominciare o ancora di più riattivarsi nelle tattiche di quotidiane dal basso. E qua in Chiapas abbiamo tanti esempi di lotta, a partire dalle comunità indigene in resistenza, come le comunità zapatiste, che da sempre hanno posto al centro della sua riflessione politica e anche delle loro pratiche autonomiche la partecipazione delle donne e il ribaltamento dei ruoli di genere e il combattere il patriarcato. Ovviamente di strada da fare ce n'è ancora tanta, tanto nel contesto rurale che nei contesti urbani. Ok, io ti vorrei ringraziare veramente tanto per questa corrispondenza, e non so se magari ci vogliamo riaggiornare la prossima settimana per sapere come si è concluso il congresso e soprattutto magari la manifestazione di domani come sarà andata. Insomma, ce ne saranno veramente tantissime in tutto il mondo, un po' tutte con la stessa frase, non una di meno. E diciamo che questa frase ha riconosciuto tante battaglie e tante donne che in questi giorni scenderanno in piazza. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, oppure noi ti ringraziamo e ci sentiamo casomai la prossima settimana. Molto volentieri, vi ringrazio io e sì, assolutamente, se vogliamo organizzare un'altra corrispondenza sarò ben felice, speriamo domani. Io sarò un po' col cuore, col corpo qua in Chiapas, ma col cuore anche in tanti altri posti, tra cui l'Italia, a marciare. Va bene, ti ringraziamo veramente tanto e buona lotta, buone manifestazioni. Grazie a voi. Ciao, grazie. Grazie a voi. Ciao.